Andiamo, let's go! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Prova il sinistro per Berti, una grandissima conclusione al volo, è un gol meraviglioso questo. Serginho, buco interno, Serginho, 6-0, non ho mai visto una cosa del genere in un derby, Lancio di Moriero per Ronaldo, rete, il raddoppio dell'Inter con Ronaldo, Inter ancora una volta. Estremamente pratica, Moriero pesca in area Ronaldo. Sedor, prova anche lui il destro. Clarence Sedor. Palle che gira subito, si infila nello spazio Milito. Riesce a guadagnare palla di Milito. Principe Milito. Cerca spazio lui, Gattuso ancora per Pato, attenzione a Robinho, stucca lui, Pato tutto solo, rete. Abbiamo pescato con Giorgio De Luca, il nostro autore, la vicefazione in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, qualche gol storico del derby di Milano, qualche suggestione da Ronaldo a Serginho, a ricordi dolci o amari da entrambe le parti. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Bene, bene, non vediamo l'ora che sia domani. Domenica. Che sia domenica per il derby, che sia domani, perché domani comunque vediamo in campo il Napoli a Udine in una partita che ricorda ai napoletani, invece, che riporta i napoletani ricordi abbastanza amari, e poi ne parliamo, e la Juventus in casa con il Pescara per un ostacolo che non sembra insormontabile. Poi è chiaro che guardando tutto questo e le partite di domenica pomeriggio, il pensiero continuerà a scorrere verso un derby che è diventato praticamente impossibile da leggere, anche se tra un po' ci riusciremo perché ci sono mille suggestioni intorno. Ad esempio c'è Ambrosini che ha parlato dei suoi derby. Assolutamente il primo, che era nel marzo del 96, quello che in cui fece gol Branca, Marco Branca, e io giocai il secondo tempo di quella partita lì. Sicuramente il 3-2, il 3-2 famoso, il 2-0 a fine primo tempo, no, non giocai quella partita lì, ma lo ricordo come un derby incredibile, quello che recuperammo il 3-2 nel secondo tempo. Poi c'è anche lo zio Bergomi che invece si proietta non sul passato ma sul presente, sul futuro, domenica sera di questo derby di Milano. Con l'arrivo di Pioli, che si è da 12 giorni che allena questi ragazzi, però avrà a disposizione i nazionali per pochissimo tempo, no? Quindi anche per lui preparare il derby non sarà stato facile, ma mi sembra anche la persona adatta, la persona giusta per poter rilanciare l'Inter. Il derby è sempre un'incognita, appunto quando arriva dopo una sosta non è mai facile. Da una parte quella del Milan ci sono delle certezze, perché è una squadra che ha un'identità, una squadra che sta ottenendo dei risultati, è terza in classifica. Dall'altra un Inter che ha vinto sì col Crotone, però insomma una squadra che deve rilanciarsi. Come ho detto prima, Pioli mi sembra la persona più corretta. Questo Bergomi, Pierluigi Pardo, definire a Milan una squadra con delle certezze, poi vedi su ogni giornale, li avrai visti tutti anche tu, la faccia da bambino, babyface Locatelli, con tutta la sua sfrontatezza, non è male, eh? Sì, perché insomma è una bellissima storia quella, sicuramente una storia che aggiunge magia, che aggiunge poesia, che aggiunge entusiasmo a questa partita, che però non è che ne abbia così tanto bisogno, nel senso che il derby è bello pure nei periodi brutti. Non è certamente il derby di qualche anno fa, e sicuramente la nostra clip iniziale poteva indurre un po' di tenerezza, come direbbe Battiato, un po' anche di nostalgia, però è comunque un derby interessante, vibrante, con delle cose che stanno succedendo da tanti punti di vista, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista societario, dal punto di vista dell'allenatore nel caso dell'Inter, con sicuro. L'Inter che non può più sbagliare, quindi insomma è un buon derby, certo, non è il derby che valeva la finale di Champions League, tanto per ricordare una roba di 12-13 anni fa, però è derby. Un derby che ha mille pieghe di interesse. Senti, in 30 secondi invece dimmi una battuta sulle altre due partite, una delle quali commenterai per l'appunto, cioè quella del Napoli con Udine, Udinese-Napoli e Juventus-Pescara. Ma Juve-Pescara francamente mi sembra una partita di quelle che se dura un tempo è già tanto, sì. Sinceramente, insomma, al di là di tanti motivi, ovviamente la situazione a Pescara nelle ultime giornate si è molto complicata, c'è la suggestione di Pepe che ovviamente è rimasto nei guardi dei tifosi della Juve, però insomma mi sembra tecnicamente una partita scritta. Udinese-Napoli invece mi sembra una grande partita. Grande partita perché il Napoli chiaramente non se la porta da casa, l'Udinese viene da 4 risultati consecutivi, sta giocando molto bene, tra l'altro da quando è arrivato del Neri ha perso una sola partita in casa della Juve senza demeritare, quindi veramente sta avendo un impatto molto molto importante. In più il Napoli ha degli acciacchi che complicano le scelte o forse le semplificano da un certo punto di vista, visto che Sarri quando ha tanta abbondanza qualche volta va un po' in confusione. Potrebbe esserci questa occasione per Giaccherini come esterno tattico del tridente offensivo. Il Napoli deve dare tracce di sé, non c'è molto da aggiungere. Albiol ovviamente è un ritorno importante, lì davanti bisognerà capire se in queste due settimane la squadra avrà lavorato per costruire qualcosa di diverso, perché il tempo comincia a scarseggiare. Sì, non c'è dubbio. Ci fermiamo un attimo per il traffico. Siete tutti convocati. 800240024 per la vostra voce, per i vostri iscritti. 349-238-6666. Di questi e di molti altri argomenti torniamo a parlare tra pochissimo. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovie. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... Convocati. Con una tempistica del tutto particolare, del tutto curiosa, l'Inter ha deciso di parlare oggi, lo stanno facendo Pioli e Icardi. Sentiamo due battute, una di Pioli. Io credo che noi dobbiamo giocare la squadra, poi non sarà così importante le posizioni in campo iniziale, ma sarà importante l'interpretazione della gara. Dobbiamo stare dentro questa partita con la testa, con le gambe e col cuore e pensare che ogni pallone possa essere il pallone decisivo. Credo che questa sia l'interpretazione che noi dobbiamo dare a questa gara. Già che ci siamo, sentiamo anche Icardi. E questo è un obiettivo sicuramente che ho, fare gol al Milan, ancora non li ho segnato né con la maglia della Samp né con la maglia dell'Inter, è un obiettivo per me sicuramente questo. Dunque, con la tecnologia in 4K si vedranno anche i riccioli di Gagliani, scrive un ascoltatore, tecnologia in 4K che Pardo sperimenterà con la sua voce, vedremo sì. I riccioli di Gagliani. Chi ci vorrà, chi ha ovviamente premium e un televisore in 4K deve semplicemente la far cam e si può godere la partita sul canale 391. Fatto questo spot, grazie dello spot gratis. Figurati, amico mio, figurati. No, ma è anche derby tra giornali, tra media, ad esempio tra Libero e Il Giornale. Franco Ordine, buongiorno. Eccomi qua, io non mi sento per niente in derby. No, e perché? No, perché io il mio derby l'ho già vissuto qualche settimana fa a Lecce, basta. Sì, certo, questo lo sappiamo. Fabrizio Biasin, Libero, buongiorno. Buongiorno a voi. Io invece mi sento in derby. Tu ti senti in derby. Allora andiamo subito dritti. Pronostico, dai. Pronostico. Poi andiamo con gli altri temi, con le altre cose. Comincia Ciccio Ordine. Allora, il mio pronostico è questo: senza Romagnoli il Milan parte dietro e rischia di perdere. E Romagnoli è un grosso problema. Biasin. Ma io credo che la sosta abbia un po' rallentato quella che era la crisi Inter, sistemato un po' le cose, e sono dell'idea che l'Inter abbia veramente valori tecnici importanti, per cui credo che in funzione anche del fatto che l'Inter o porta a casa i tre punti o saluta il terzo posto, probabilmente l'Inter parte favorita. Faccio il mio pronostico, Max da Como scrive, faccio il mio pronostico per il derby, pareggio anonimo privo di spunti interessanti. Pardo. Io ho già fatto il mio pronostico che è 1-1, anche Bonaventura e Icardi, così tanto per giocare. Sì. Il fatto che l'Inter abbia in assoluto una somma di talento superiore. Però secondo me ha anche delle debolezze più spiccate. Poi adesso certamente l'infortunio di Romagnoli cambia un po' gli equilibri, perché la cambia moltissimo del Milan, anche perché diventa... o gioca Zapata, che praticamente non ha mai giocato, o giochiamo io e te. O Franco Ordine o Fabrizio Biasi. Devo giocare Gomez con Fretta, però sicuramente... ho capito, ma anche lui è appena tornato, certo. Sicuramente non è la situazione ottimale. In assoluto, diciamo che a rose complete, secondo me l'Inter ha più talento, ha più picchi e più Baldi, ha più giocatori decisivi, però anche, secondo me, più equivoci e più problemi. In particolar modo, non me ne vogliano, ma dal punto di vista degli esterni bassi, l'Inter è molto in difficoltà da quel punto di vista. E conterà anche molto l'aspetto psicologico, come in tutti i derby, insomma... credo che l'Inter abbia più pressione addosso. Questa pressione può diventare motivazione e quindi appunto spingere, come diceva Biasin, la squadra a una grande prestazione per il terzo posto, per cancellare le cose brutte che si sono viste fin qui, o può essere un fardello. Questo lo scopriremo solo vivendo, però sì. Insomma, io vedo un derby equilibrato, sinceramente. Anch'io, ma anche perché per l'Inter, lo chiedo anche a Franco Ordine e Fabrizio Biasin, può essere la partita della svolta. Il Milan ha messo talmente tanto fieno in cascina che gioca certamente più leggero, al di là del problema del centrale. Sì, no, Ciccio, sei pronto a scendere in campo? Certo, allora è evidente che il Milan ha fatto della leggerezza, della spensieratezza e diciamo anche della serenità la sua arma vincente. Questo è il tocco magico che ha dato Montella al Milan di quest'anno, che poi se leggi le dichiarazioni per esempio di Abbiati, ti rendi conto che quello dell'anno scorso era, per usare un eufemismo, un bel casino. Il problema vero del Milan è che ha una cifra tecnica complessiva nettamente inferiore rispetto all'Inter, sì. Però è più squadra rispetto all'Inter, per cui secondo me chissà perché vedo una partita che si sblocca solo nell'ultima mezz'ora, magari nel finale con gol di Rodrigo Eli, come suggerisce un ascoltatore. Ecco, quello se... però vorrebbe dire che però il derby non vale. Se fa gol Rodrigo Eli vuol dire che non vale, non vale, non vale. Poi bisogna vedere in quale porta, perché Eli qualche volta ha sbagliato anche la direzione. Vai, altre battute su Rodrigo Eli, c'è qualcun altro che si offre, magari Cristian da Parma tra poco. Rodrigo Eli lasciamo perdere, ma ce lo ricordiamo a Firenze, ma poi è scomparso praticamente. No, ma guarda che non soltanto a Firenze, ma nella partita col Napoli dell'anno scorso, 0-4, e ne ha fatte più di Bertoldo in Francia. Sì, lo sappiamo. Vi faccio sentire un altro Pioli che sta parlando. Grazie al lavoro che ho fatto e che mi sono costruito, sono arrivato qui al top della mia maturità, sono una società tra le più prestigiose del mondo, ho la responsabilità di guidare un gruppo di giocatori di grande tasso tecnico, ma anche, ripeto, di grande capacità professionale, supportato in tutto per tutto dalla società. Sono stato accolto bene dai tifosi, che amano questi colori, e quindi mi sento tranquillo e mi sento positivo e fiducioso per la prossima partita. Rose e fiori nerazzurri per Stefano Pioli. Cristian, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Dica. Rose e fiori sicuramente per Pioli, è stato ingaggiato dall'Inter, però io non vedo un derby, seppur non tipo per nessuna di queste due squadre, così importante, così bello come dite voi, perché io dico, il Milan io penso che abbia dato, probabilmente sta giocando meglio di altri anni, ma c'ha una fortuna che è una cosa spudorata. L'Inter io non vedo tutto questo tasso tecnico. Ricordiamoci purtroppo, teniamo a mente che se quei tre atleti che sono arrivati quest'anno fossero così forti, in Italia non venivano a giocare. Parlo del portoghese, parlo del brasiliano, io penso che si fossero con Gobbi l'anno scorso, si fossero così fenomeni che alzano il tasso tecnico come tutti voi dite in Italia, non sono stati pagati due ramini. Non sono d'accordo, è chiaro che noi i Cristiano Ronaldo ce li sogniamo, però siamo ancora in grado di comprare giocatori. Sono giocatori. Banega è candida ovviamente a essere l'acquisto furbo della stagione dell'Inter. João Mario secondo me è stato pagato troppo, l'ho detto, lo ribadisco, cioè mi sembra una cifra un po' esagerata, però è stato sicuramente uno dei migliori centrocampisti dell'europeo, un giocatore che piaceva a molti club, insomma con Dogbia l'anno scorso oggetto di un derby Milan-Inter, veniva da una stagione molto importante col Monaco, insomma come sempre. Quello che è vero, Pier, è che il nostro è diventato un campionato di passaggio, nel senso che i grandi giocatori vengono qui, maturano, acquistano visibilità e diciamo anche potenzialità e poi prendono e poi il volo vengono comprati per una vagonata di soldi. Però possiamo anche dire che quest'anno c'è stata un'inversione di tendenza un pochino, perché ci sono delle squadre molto importanti, lasciamo perdere la Juventus che è tra le prime 4-5 in Europa, ma una squadra come il Napoli ha investito, l'Inter ha investito tantissimo, il Milan, dovessero arrivare i cinesi e questi soldi probabilmente investirà, secondo me è tornato ad essere un campionato importante e secondo me non bisogna svilire troppo il derby milanese, perché se vogliamo è anche San Siro è anche l'unico stadio che garantisce gli 80.000 spettatori, l'ha fatto in Inter-Juventus, l'ha fatto con Milan-Juventus, sì. Lo fa con questo derby. Insomma, resta una città molto importante per il calcio italiano e assolutamente, europeo. Assolutamente, sì, io sono d'accordo. E l'Italia resta una cultura calcistica importante. Cioè adesso veramente io capisco che lo sfascismo e la depressione alberga in noi, però insomma fino a un certo punto non buttiamoci giù del tutto. Ecco, penso che non siamo sicuramente come valori economici come l'Inghilterra, come valori tecnici come Barcellona e Real Madrid, ma come valori tattici non siamo gli ultimi della pista, e De Boer credo l'abbia imparato nel suo. Abbiamo perso il treno negli anni 90, perché questo lo rivediamo spesso, negli anni 90 quando noi eravamo dominatori il calcio non aveva una dimensione globale, adesso il calcio ha una dimensione globale e noi abbiamo perso il treno perché abbiamo strutture meno valide e una situazione economica sicuramente inferiore rispetto agli altri club. Ragazzi, un'ultima domanda tecnica, poi saluto Cicciordine e Fabrizio Biasin, mentre ovviamente Pardo rimane con noi. Tema tecnico, Banega o Brozovic da una parte, dall'altro Bacca o la Padula? Ciccio. Allora, io vado bello dritto per la mia strada. Allora, su Bacca la Padula io non ho dubbi, comincerei con la Padula, poi eventualmente fai entrare Bacca. Su Brozovic e Banega ho l'impressione che, conoscendo le caratteristiche di Banega, mi ricorda molto Rui Costa, cioè uno che porta la palla, che cerca il dribbling, che non cuce, non ha le caratteristiche, come lui stesso ammette, di regista davanti alla difesa. Per cui io sono per Brozovic. D'accordo, Biasin? Guarda, in questo momento Brozovic è favorito e avvantaggiato, uno perché arriva da una grande prestazione con la sua nazionale, Banega arriva da invece una trasferta impegnativa, per cui io mi immagino ci sia una preferenza per Brozovic. Sull'altro fronte io sceglierei tutta la vita Bacca, perché è vero che non segna da 5 partite, io sono anche un fan di La Padula, però secondo me ci sono due gradini di differenza tra i due giocatori. Pardo, Bacca, sei d'accordo con chi? Bacca e Brozovic. Sì, giocheranno loro, poi non quindi so, sei d'accordo con Biasin, mentre Ciccio dice punterebbe sulla freschezza, sulla cattiveria, sulla voglia, sulla fame. Sì, di, ma io dico la Padula entra e fa delle cose che servono alla squadra. Bacca fa delle cose che servono solo e soltanto a se stesso. A fare gol. Sì, però i gol che servono essenzialmente a se stesso possono avere anche una qualche utilità per la squadra. Certo, no, ma questo a qualcosa possono servire. Non discuto, no, ha ragione, è una battuta, ha ragione Fraga, è chiaro che è un attaccante che partecipa poco, partecipa poco al gioco della squadra. Secondo me nella serata del derby ci vuole gente che partecipi molto, perché il livello tecnico la cifra tecnica è decisamente inferiore rispetto al rivale, allora devi sopperire con altre qualità. Ragazzi, vi ringrazio. Aspetta Pier, adesso mandiamo la borsa, salutiamo Franco Ordine e Fabrizio Biasin. Ciao ragazzi, ciao, grazie a voi, borsa, ciao, poi grazie, tanto torniamo a parlarne. tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia, pigia il coso rosso, grazie. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Credi Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Tutti convocati. Tutti convocati, 800240024 e tutto può succedere, mi viene da dire, come mi ricordava un mio amico... Conte dall'orlo del licenziamento, almeno si diceva e si scriveva o ipotizzava nei bookmakers, all'essere allenatore del mese in Inghilterra. Ma io ho interrotto Pierluigi Pardo mentre stava dicendo qualcosa. Però non mi ricordo, forse era su Bacca. Sì. Ah sì, era su Bacca, che no, era il discorso che faceva Franco, adesso poi devo ascoltare, quindi mi serve. Però insomma, lui dice giustamente che c'è bisogno di spirito, di partecipazione, perché il Milan ha qualcosa in meno in termini individuali dell'Inter. Questo potrebbe spingere all'ingresso in campo di Lapadula, ma potrebbe anche invece far fare il ragionamento contrario a Montella, nel senso che se hai qualcosa di meno... Io la penso come te, Pier. No, voglio dire, se hai meno giocatori in grado di poterla cambiare con un gesto tecnico, eccetera, rinunciare a uno di questi potrebbe essere un ulteriore problema. Cioè, Bach è venuto un po' sulla graticola, però siamo sempre stati d'accordo sul fatto che sia un grande finalizzatore. Magari questo Milan non è cucito addosso a lui, però... rimane comunque un grande finalizzatore di livello internazionale. Lui è sempre stato un giocatore, a parte è stato un giocatore, il Siviglia giocava spesso anche con le ripartenze, grande velocità, però insomma 2012-2013 28 gol a Bruges, l'anno dopo 21 gol a Siviglia, l'anno dopo ancora 28 gol a Siviglia, l'anno scorso in una stagione complicata del Milan 20 gol al Milan, insomma stiamo parlando di uno che negli ultimi 4 anni, prima di questo, ha fatto 49, 76, 97 gol in 4 anni. Il che non è male, È difficile rinunciare. È difficile rinunciare anche secondo me. Maurizio Crosetti, buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi. Come ciao ragazzi. Stai? Senti. Bene, grazie. Molto bene. Allora facciamo un audio forum, partendo da Allegri, altro argomento del giorno, perché ha parlato ovviamente vigilia la partita con il Pescara, che diceva prima Pardo... mi stupirei durasse più di un tempo, però c'è il retropensiero, o potrebbe esserci il retropensiero del Siviglia. Allegri. Siviglia non è decisiva, noi abbiamo in Champions due partite, Siviglia e Zagabria con la Dinamo in casa. Basta vincere una partita per essere qualificati matematicamente. Bisogna fare due risultati su tre a Siviglia, abbiamo la possibilità di fare due risultati su tre a Siviglia per poter ambire al primo posto, però in questo momento la Champions va messa da una parte, perché la prerogativa è battere domani il Pescara, e ripeto, non sarà semplice se approcciamo male. Siete d'accordo con l'allenatore della Juventus, Crosetti e Pardo? Cross. Beh, indubbiamente l'unica partita decisiva in una stagione è una finale, perché non c'è ritorno, e tutte le altre però hanno quantomeno... Dire che Siviglia non è decisiva, è importante. No, non è decisiva, è molto importante, e in realtà lo è come lo è ogni partita. È decisiva perché può decidere se la Juve si incamminerà con una vittoria nell'ultima facile con la Dinamo Zagabria verso un primo posto, ma poi sarebbe decisivo un primo posto nel caso si pescasse una seconda forte, sarebbe più decisivo arrivare secondi, rischiare moltissimo, ma magari non beccare una corazzata come prima, tutti i discorsi abbastanza teorici, anche questi discorsi non decisivi. L'unica cosa decisiva è giocarsele tutte al meglio che si può, e non mollando niente e magari cercando di lasciare indietro questa sindrome europea con cui la Juve convive da 60 anni. Da sempre, quindi, praticamente da sempre. Da quando esistono le coppe, Maurizio, bravo. Però per la verità, Pierluigi, forse mai come quest'anno i gironi sono talmente particolari che insomma, a differenza dell'anno scorso, l'arrivare primo o secondo forse cambia un po' di meno. come sì, questa impressione? L'anno scorso è stata proprio una tendenza molto, molto precisa. Molto precisa. Potrebbero esserci situazioni un po' diverse. Ad esempio il Bayern in questo momento è secondo nel girone dietro l'Atletico Madrid, al di là del fatto che poi è difficile dire al 100% che sia meglio affrontare l'Atletico del Bayern, però forse un indizio in questo senso c'è. Anche se sappiamo che l'Atletico in Europa ha fatto delle imprese incredibili, eliminando due volte il Barcellona in questi anni, arrivando in finale per ben due volte. Quindi, francamente, sono appunto, diceva giustamente Cross, discorsi abbastanza teorici. Io credo che la Juve all'inizio della stagione si era data l'obiettivo, giustamente, proprio perché scottata dall'esperienza dello scorso anno, di chiudere al primo posto il girone, anche come segnale di crescita. Diciamo di carattere europeo, dove sappiamo che fa un po' più fatica storicamente, e questo obiettivo secondo me ha un valore quasi a prescindere. Cioè la Juve deve provare ad arrivare al primo posto nel girone, deve cercare di conseguire questo obiettivo, mi verrebbe da dire, più per se stessa che per il destino, per il sorteggio. È chiaro che comunque sia, tanto poco che sia, arrivare primi è meglio che arrivare secondi, cioè sicuramente statisticamente minimizza la possibilità di un sorteggio duro, di un sorteggio poi difficile. Che se la sfiga ci vede, allora a quel punto non puoi farci nulla, così come se la fortuna ci vede il terzo contrario, no? Puoi arrivare secondo, trovare una sicuro. Altro file audio relativo ad Allegri, che parla di quello che è stato uno dei casi della settimana che si è giocato dall'altra parte del pianeta. Higuain domani gioca, non vedo perché non dovrebbe giocare. Ieri ha fatto un lavoro di recupero, almeno che oggi nell'allenamento di rifinitura non succeda qualcosa, però domani Wayne gioca. Per quanto riguarda l'umore, si sa, nel calcio c'è un momento in cui le cose vanno bene, vanno meno bene. È tornato, era sorridente, era sereno, era tranquillo. Con noi sta facendo una buona stagione, e quindi la nazionale argentina ha vinto, si è rimessa in corsa per le qualificazioni mondiali, quindi non vedo perché non debba essere contento. Perché si porta il santino di Pratto nel portafoglio. Cross. Allegri è fantastico in queste cose, no? È proprio... Si è portato la fotografia di Pratto, suo nuovo idolo, e se l'è appesa in cameretta come fanno i bambini. Maurizio. Beh, in effetti sì, sono storie divertenti che portano al sorriso, ma soprattutto a evitare poi il paradosso. Perché questo si tratta, no? Di mettere in discussione un giocatore incredibile come Higuain, che pur non essendosi ancora, l'abbiamo detto fino alla noia, sì, ma Pratto, ma fammi il favore, ma dai, ma fammi Pratto, il favore, dai, Pratto, dai, no. Se volete Pratto e volete dare Higuain alla squadra di calcetto mista di mia figlia, noi lo prendiamo, eh. Se proprio volete fare il cambio alla pari, anzi chiamiamo Raiola e dico: vorresti venire far venire il ragazzo da noi, anche se è un po' sovrappeso. Non è che gli altri componenti della squadra siano tutti longilinei e comunque segnano meno di del Pipita, quindi, no, a parte gli scherzi, dai. Higuain è il giocatore che la Juve ha preso per vincere la Champions, anche per questo, come dice Pierluigi, deve vincere il girone per essere sempre più convinta di questo traguardo. Più per se stessa che per la, sì, ma infatti, perché per l'aritmetica, perché per la classifica, per se stessa. E non abbiamo ancora visto Higuain nei meccanismi giusti di una Juve che per adesso gioca con lui più che per lui. Sì, ma quando questo pazienza, avverrà, quando questo avverrà, altro che Pratto. Allora, ci fermiamo un attimo per il traffico, poi un ultimo argomento da sottoporre a Maurizio Crosetti, che seguo ovviamente ogni giorno, che ieri ne ha scritto. A dopo. Tutti convocati. I love this game. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Dunque, per la gioia di Maurizio Crosetti, vi faccio sentire cosa ha detto Marotta a proposito dell'eventualità. Eventualità, ma quale eventualità? Della futura elezione di Galliani a presidente di Lega. Ho cercato di delineare quello che deve essere un profilo di presidente di Lega. Galliani ha tutte queste caratteristiche, ma la cosa principale è che lui stesso si candidi. Io credo che Galliani possa dare ancora molto al calcio, il calcio ha bisogno ancora di Galliani. Come ha scritto Crosetti ieri, ecco il nuovo che avanza. Il calcio ha bisogno di grandi novità, di scenari, di riforme, premesso che poi io non sono mai stato un rottamatore, Questo, la parentesi va fatta, perché la competenza, l'esperienza e saper fare le cose non sono valori che invecchiano e improvvisamente si è rimbambito. Però poi bisogna chiudere la parentesi, perché chi vuole un calcio diverso e da anni dice questa cosa ad ogni conferenza stampa, cioè la Juventus, cioè Andrea Agnelli, poi fare due endorsement di fila, una Tavecchia e una Galliani, come se fossero il miglior presidente possibile della FDC e della Lega, è un po' in contraddizione col voler cambiare. Questo va detto. Se il calcio non riesce a produrre dirigenti nuovi in un'epoca in cui persino giocatori nuovi riesce a produrre, che sembrava finita proprio, no? La vendemmia sembrava finita, e invece questa è la stagione dei giovani, per fortuna. Ma accidenti, possibile che in tutti questi anni non si sia realizzato, cresciuto, no? La cantera di dirigenti, non c'è un ex calciatore, un personaggio di sport, un dirigente, un manager che sappia di cosa stiamo parlando. Anche Galliani lo sa, anche Tavecchio. Però se è la stagione delle riforme, è un po' difficile pensarlo con questi due personaggi, secondo me. Sì, non buttiamoli in politica, però anche da anche da quelle parti non è che ci siano grandi tendenze al cambiamento, Salvio Scossone, rivoluzione. Però la politica comunque può non piacere il Presidente del Consiglio, e io non ne vado pazzo personalmente, però bisogna riconoscere che se il calcio fosse, imitasse almeno un po' la classe dirigente al momento della nostra politica, non avremmo Tavecchia e Galliani lì. Comunque, questo va detto, non per fare i renziani, però è così. Pierluigi, è rimasta la Roma è rimasta abbastanza da sola, cioè, a parte il fatto che Andrea Agnelli ha sempre sottolineato possa appoggiare la candidatura la rielezione di Tavecchio, ma ha messo delle condizioni precise. Sì, è abbastanza sorprendente questa virata, abbastanza sorprendente, e io non so, come sapete non è che sia un particolare appassionato di vicende di politica sportiva, e ci capisco abbastanza poco, però insomma leggo i giornali, e sicuramente rispetto agli anni del grande gelo con Juve e Roma essenzialmente all'opposizione, e invece le altre, le milanesi, il Napoli, il Genoa, insomma l'Udito, questo gruppo di dirigenti molto affiatati e molto vicini uno con l'altro, mi sembra che le cose in qualche modo siano cambiate. Credo che ci sia adesso, e non è una cosa banale, insomma lo leggiamo sui giornali, anche la scadenza del prossimo contratto televisivo, che è molto importante, perché quello precedente è stato molto ricco grazie a una competizione che esisteva ed era molto precisa. Bisogna capire in che condizioni si arriva. Credo che questa sia in questo momento la priorità assoluta, perché purtroppo, lo sappiamo bene, il calcio italiano, Berinazzo ce lo spiega tutte le volte, fatica molto ad accrescere i propri introiti extra televisione. Certamente. Uno dei problemi che abbiamo, non riusciamo a crescere. Ad esempio, guarda quanto vale la maglia del Barcellona, come abbiamo letto su tutti i giornali. Quante ne vengono vendute, quindi, ma quanto vale comunque, come a livello di sponsor? Insomma. E comunque sia, è anche vero che anche negli altri paesi, ad esempio Inghilterra, che giustamente insomma vediamo come modello, perché ci sono gli stati di proprietà, perché ci sono tutti i tifosi che si comprano la maglia originale e vanno allo stadio, quindi il merchandising funziona, però anche in Inghilterra poi alla fine la grande svolta l'hanno dato i diritti televisivi, quindi è abbastanza una tendenza radicata in tutto il mondo, in Italia in particolar modo, perché ahi noi non riusciamo a crescere sugli altri elementi. Quindi quello credo che sia la vera preoccupazione in questo momento dei dirigenti, e anche io non faccio fatica a capire che cosa sia successo, ma qualcosa evidentemente è successo. Una cosa semplice è successa a livello di influenza federale. Lo Tito non ha più l'ala lunga e pesante sul capo di Tavecchio, è molto ben consigliato da uno dei migliori dirigenti calcistici italiani, che è Michele Uva, direttore generale del calcio, e la Juventus, che non dorme, ha capito che forse può essere lei, non dico indirizzare la linea della Federcalcio, però insomma a occupare lo spazio vuoto di Lotito, che era francamente uno spazio inaccettabile per altri club. Quindi questo è successo. Lotito ha fatto un intelligente ed evidente passo indietro, almeno dal punto di vista proprio della presenza. Sì, bisogna vedere se ha deciso di fare un passo indietro, se è stato spinto. Devo anche dire, ne parlavamo l'altro giorno in occasione di Italia-Germania, che Tavecchio, che era partito malissimo, credo non ci siano dubbi, questo tipo di gestione, insomma io sono stato l'altro giorno alla presentazione del bilancio integrato, si può discutere sulla polemica di Intralot, per carità, però mi sembra che la federazione abbia avuto un'attenzione, una sensibilità verso una serie di tematiche di carattere sociale. Sì, questo bisogna ammetterlo. Questo molto bisogna positiva, ammetterlo. Ecco, questo bisogna ammetterlo. È una partenza sì, terrificante di gaffe, di stupidaggine assortite. Saluto Maurizio Crosetto e lo ringrazio. Ciao Mao. Grazie, ragazzi. A presto. A presto. Io ho un minuto e mezzo, me lo chiedono a gran voce, ad altissima voce gli ascoltatori, nonostante, cioè, per iscritto, ma me lo chiedono ad altissima voce. La schedina di Pierluigi Pardo abbiamo un minuto e mezzo. Vai, vai. Sul derby abbiamo già detto 1-1, quindi passiamo oltre. Chievo-Cagliari. Chievo-Cagliari 1. Udinese-Napoli. 1. 1. Wow. Ho detto 1. Wow. Juventus-Pescara. 1. Ok, andiamo a domenica. Atalanta-Roma. Atalanta-Roma X. Sampdoria-Sassuolo. Non posso fare quelle cose tipo over? No, dammi un segno. Dammi un segno. Batti un colpo. Momento esoterico. Anche perché vengo da un 8, se non sbaglio, 8 su 10. Sì, sì, ma guarda, stia scrivendo. C'è anche pressione. Tranquillo. Sampdoria-Sassuolo è un casino, diciamo X. Bologna-Palermo. 1. Crotone Torino 2. Empoli Fiorentina 1. Lazio Genoa 1. E beh, poi c'è Milan Inter, hai già detto 1-1 X. Ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo domenica. Ciao, ti abbraccio anche ciao. Questa settimana. Ciao. Allora, state con noi, dopo il GR torniamo con molti altri argomenti, compreso un pizzico di basket, compreso un approfondimento su Udinese-Napoli, per cui Pardo ha dato la vittoria all'Udinese, comprese molte altre cose. State con noi. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Dato che tutti siete convocati, riparto proprio da Ruben dalla provincia di Cuneo, 800240024, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Grazie della convocazione. Niente, ti chiamavo per la storia di Prato, no? Dalla voce sei argentino. Sì, sono argentino. Prato, è, diciamo che Higuaín è stato sacrificato, ma non perché Prato è migliore, perché lo sappiamo tutti che non è migliore, ma per il fatto che ci vuole un cambiamento. Higuaín, Di Maria, lo stesso Mascherano, sono tutti discussi da noi, perché sembra che no... Beh, anche Messi, che le manca un po'. Anche Messi, sì, ma... anche Messi dopo la partita col Brasile, pesantemente. Però Ruben, quando hai fuori classe di questo tipo, tu, insomma, secondo me devi dare loro fiducia, non devi metterli in castigo. Questa è la mia idea. Sì, però tu devi pensare che puoi anche provare altri giocatori. Io non dico Prato, chiama Icardi. Sì, ma questo succederà. Però l'altra settimana parlavi che ne avevamo tanti giocatori in attacco, no? Dybala adesso fuori, va bene. Io ti volevo chiamare per farti uno scambio. Sì. Io ti faccio scegliere chi vuoi. Tu me dai a Guanucci, me dai a De Rossi e poi davanti scegli a chi vuoi. Io non ho problema a cambiare, tranne Messi, perché poi la squadra devi farla intorno a lui. Sì, intorno a lui, che però non è che deve correre Messi. No, deve correre anche Messi e deve anche, secondo me, avere un po' più di carisma su questa squadra. Deve anche essere capace di qualche volta di portarsela sulle spalle. Però questa mi è piaciuta. Torna a trovarmi, Ruben. Discutiamo. 800240024. È un piacere per me finalmente sentire di nuovo Paola Ellis, voce di Fox per l'Eurolega, per il basket. Ciao Paola. Ciao, come stai? Io benissimo, e tu? Molto bene, grazie, benissimo. Senti, momento un po' così strano, ma anche interessante anche per la Milano del basket. Ieri sconfitta sul campo, mi piace chiamarla Severna Svezda. Sì, questo è il nome effettivamente per noi nostalgici, perlomeno di unirsi sicuramente, o comunque di campi storici. Comunque, sì, è un momento strano, questo è vero. Credo che questa nuova formula dell'Eurolega, che sostanzialmente abbina un altro campionato al campionato, perché sono 30 giornate, e a me piace da morire, sta un po' sfasando tutti, perché una settimana in cui c'è un doppio impegno, per cui giochi, come è successo a Milano, una partita in casa, il giorno dopo parti, poi il giorno dopo ancora giochi, poi riparti, torni a casa, insomma, evidentemente sta facendo un po' pagare, perché è strano vedere come Milano abbia giocato straordinariamente bene il martedì e decisamente malino il giovedì. Sì, discorso delle lunghe trasferte che riguardano tutte quante, insomma... stile NBA, certo, non è che sia solo Milano, tutti riguardano tutte quante, ma la formula io la trovo assolutamente vincente. È chiaro che le squadre che partecipano all'Eurolega sono nei loro campionati inavvicinabili da parte di chiunque. Poi possiamo discutere sulla Turchia, che qualche rivale, magari il Fenerbahce può trovarlo lungo la strada, ma negli altri campionati fanno un altro gioco, fanno un altro sport. Beh, non è un caso che, giustamente tu dici, la Turchia, che Istanbul abbia quattro squadre in Eurolega, quindi effettivamente. Il livello probabilmente almeno ai vertici è diverso. Sì, diciamo che negli altri campionati basta vedere che le finali se le fanno Olympiacos e Panathinaikos, Barcellona-Real Madrid, Milano comunque nel campionato italiano fino a questo momento ha dimostrato di non avere assolutamente rivali, per cui sì, effettivamente c'è una profonda differenza. Io credo che, come dici tu, la formula possa essere vincente, sicuramente è avvincente, perché è il fatto avvincente, che si incontrino tutti, tanto toglie gli alibi, non c'è più nessuno che può parlare di appartenenza a un girone di ferro, a un girone più leggero, qui tutti quanti se la vedono con tutti e i più bravi vanno avanti. Senti, ma per chiudere, che sensazione ti sei fatta tra le esternazioni di Repesa, i cestini presi a calci con Gentile che viene relegato in panchina per punizione, con un clima che è certe volte un po' teso? Tu che idea ti sei fatta? Ma guarda, io credo che il clima teso sia una cosa normale, nel senso che a Milano c'è sempre stata forte pressione, ne hanno sempre parlato tutti, l'hanno accusata in tanti, la bravura sta nel cercare di non sentirla. Il discorso dei cestini presi a calci, ma di storie di cestini presi a calci te ne posso raccontare quanti vuoi, 30 anni di basket, per cui direi che non mi sembra il caso di farne un dramma. È che adesso ogni volta che Gentile sospira siamo tutti lì vedere in che modo ha sospirato. Lo so. Secondo me la cosa più giusta l'ha detta Repescia, lui è un giocatore, uno dei giocatori delle A7, punto, per cui se gioca bene sta in campo, se gioca male sta seduto, cioè non bisogna costruire, secondo me, dei romanzi dietro ogni cosa che fa. Sì, hai ragione Paola, anche se è la stella più brillante, certo, futuribile, poi... quindi è anche fatale che pure su di lui ci sia diversa pressione. È chiaro, è umano, anche perché è italiano, anche perché ti dà titoli, ti dà argomenti, su questo non ci piove, perché insomma è anche un ragazzo che ha il suo carattere, quindi non è esattamente uno che se ne sia zitto in un angolino... Sufficientemente teatrale, certamente. Sì, sicuramente. Grazie Paola, un piacere, come grazie sempre. Grazie a te, sempre un piacere farti compagnia. Forte. Ciao Paola Ellis. Allora, adesso io voglio tornare su quel pronostico che ha fatto prima Pierluigi Pardo. Allora, alla voce schedina, Udinese-Napoli, tra l'altro lui commenterà domani sera, senza neanche pensarci troppo ha detto 1. Voglio farvi sentire Lorenzo Insigne, che è uno dei... anche qui parlavamo di Gentile, dei grandi accusati del momento difficile del Napoli. Dobbiamo riuscire a mantenere sempre le stesse prestazioni, perché dopo arrivano i gol. Poi ci capita pure un periodo storto che appena tirano in porta la mettono all'incrocio, cioè fanno sempre gol. Io ci sto lavorando anche in allenamento, faccio gol, ma se arriva il gol ben venga, se non arriva l'importante è che facciamo i risultati. Io sto sereno così, non mi abbatto, perché l'importante è che lavoriamo sempre, miglioriamo e scendiamo in campo per fare il risultato tutti insieme. Certo, una partita particolare, anche per ricordi recenti, perché proprio a Udine l'anno scorso si spense definitivamente il sogno del Napoli tra un uragano di polemiche. Finì così. Attenzione, arriva il giallo, secondo giallo per Higuain. Rosso va proprio all'indirizzo dell'arbitro a brutto muso, dalle parti di Irrati. Portato via fisicamente da Allan, arrabbiatissimo Higuain. Allora, Boris Sollazzo, non so se fosse allo stadio, non mi ricordo più. Certamente Gigi De Canio era sulla panchina dell'Udinese quel giorno. Saluto tutti e due. Ciao Gigi, siamo anche amici, anche se quel giorno non gli ho voluto tanto bene. Non gli hai voluto tanto bene? Ma io non c'entro niente in quella circostanza, io ero girato, guardavo, parlavo con i componenti della mia panchina e quindi non me ne sono accorto. Ma Gigi lo sai che io gli ho mandato un messaggio mentre piangevo, ma... Mentre piangevi? Se dovevo avere un dolore così, meglio da lui, ma non solo per l'amicizia ma anche perché... l'allenatore, secondo me, uno dei migliori allenatori che è passato sulla panchina del Napoli, sfortunatissimo con una squadraccia, ma Napoli lo ricordano tutti benissimo, quindi io striscioni nei confronti di Cagno messi nella mia cantina, insomma, quindi per far capire quanto amore ci fosse per De Canio. Va bene, adesso smettiamolo con lo zucchero e ditemi perché Pardo ha pronosticato secco 1 per l'Udinese. Posso dirlo io per primo? Sì, sulla panchina dell'Udinese c'è un altro Gigi. Ah, ecco, certo. E da quando c'è un altro Gigi, l'Udinese ha cominciato ad andare veramente, ma veramente bene. Si è ripresa. Si è ripresa perché la squadra comunque era una buona squadra, e arricchita da qualche elemento di qualità, e che all'inizio probabilmente non ha carburato nel modo giusto, e che comunque Gigi Del Neri ha plasmato bene, tant'è che l'unica sconfitta l'ha avuta a Torino con la Juve quando lui si è insediato, ma anche una partita in cui stava vincendo, che insomma non meritava di perdere. Non meritava di perdere. Poi dopo le prestazioni e i risultati dimostrano la bontà del lavoro che sta facendo e del valore della squadra. Sentite, ragazzi, ma vedremo, non vedremo. Bisogna mai sottovalutare nessuno, insomma. Gigi, vedremo secondo te un Napoli differente domani a Udine? No, guarda, io ho l'idea che il Napoli comunque si sia ripreso rispetto a un breve periodo di appannamento subito dopo quelle grandi prestazioni col Benfica, eccetera. Sì. Il periodo che è cominciato a Bergamo e poi anche fino a Crotone, insomma, dove pur vincendo non ha giocato bene. Poi Napoli si è ripreso dal punto di vista della qualità del gioco. A mio avviso ha perso un po', e dovrebbe ritrovarlo perché altrimenti rischia di non fare gli stessi risultati dell'anno scorso, quell'aggressività che riusciva ad avere nei confronti degli avversari, rimanendo bella, molto corta, molto compatta, quell'aggressività che invece aveva l'anno scorso e che aiutava anche nella fase difensiva a prendere meno gol, al di là del fatto che alcuni gol sono arrivati più per errori individuali, no? Che per difetti, per errori di... Sì, però magari all'errore individuale arrivi anche perché ti mettono nelle condizioni di sbagliare, no? Esatto, perché appunto c'è un po' troppa pressione che magari prima non avevi. Ecco, a mio avviso, partendo dagli attaccanti, se il Napoli ritrova questo spirito, insomma... perché in porta ci arriva facilmente, le occasioni le crea, ne sbaglia qualcuno di troppo, però le crea, insomma, quindi... Sì, questo sì, manca qualcuno che la butti dentro, poi arriviamo anche a questo capitolo. Che cosa dice il tuo amico Sollazzo? Ma in realtà il Napoli le occasioni le crea fino a un certo punto, perché poi quando arriva davanti alla porta in porta non la tira, proprio perché chiaramente manca il terminale offensivo. Gabbiadini, io rivendico il fatto che se Gabbiadini avesse creduto in questa squadra, avesse creduto in questa stagione, se forse ci avesse creduto anche Sarri probabilmente ne avrebbe potuto fare 20 o 25 di gol. Chiaramente è un giocatore che non è mai realmente sceso in campo per il Napoli, quest'anno non ci ha mai creduto. Detto questo, sono abbastanza d'accordo con quello che dice il mister. Io sono contento che non ci sia lui, cioè, da amico mi dispiace perché si meritava il rinnovo, da tifoso del Napoli sono contento di che non sieda sulla panchina del Napoli, perché già Udine è difficile di sua, visto che noi ci abbiamo perso il scudetto ai tempi di Mazzarri con a Napoli Udinese col 0-2 in cui segnò Hiller, 1-2 anzi. Poi Udinese-Napoli, come hai raccontato, probabilmente lì si consuma l'addio con Higuain. Ricordo un altro Udinese-Napoli in cui Maggio non gli danno un rigore e poi lo espellono. Quindi insomma non è una partita facile per noi anche a livello psicologico. Vuoi dirmi che sei d'accordo con l'uno di Pardo? No, guarda, quello è l'unica cosa che mi consola, perché Pardo l'anno scorso ha sempre solo parlato bene del Napoli e nei momenti più importanti il Napoli ha perso, quindi questo un po' mi consola, dico forse ce la facciamo allora questa volta. Quella è l'unica cosa in controtendenza. In controtendenza, mister, si parla di, insomma, il Napoli ha bisogno di un attaccante, c'è poco da girarci intorno. Due, probabilmente due. Uno di questi potrebbe essere Zapata, che tu hai allenato a Udine. Sì, devo dire che il Napoli ha bisogno di due, perché considero terminata l'esperienza di Gabbiadini a Napoli, dopo tutto quello che è accaduto, le parole che si sono dette, tutto quello che è successo, insomma, credo che per il bene del ragazzo e anche per il bene del Napoli, lui deve andare via. Poiché non credo che al recupero immediato di Milik, io neanche, secondo me. E comunque anche dopo il recupero, per uno che viene fuori da un infortunio così, non si sa, c'è sempre un punto interrogativo su quello che può essere la reazione post infortunio. Dico che per gli impegni che ha il Napoli, perché il Napoli supererà anche l'impegno di Champions e quindi andrà avanti, c'è necessità di avere almeno due attaccanti. Con che caratteristiche? A Sarri piacerebbe avere un attaccante che abbia la capacità di tornare indietro, di cucire il gioco e di fare aprire spazi, ma anche quello di andare a finalizzare l'azione. Ora, se si riuscissero a trovare, bene, se no qualche cosa, insomma, una sorta di adattamento deve trovarla anche lui, per facilitare l'inserimento di un eventuale giocatore, che possa essere anche Zapata. Zapata è uno splendido finalizzatore in aria, sta sempre più migliorando le sue capacità, e questa esperienza Udine gli è servita per acquisire maggiori certezze e consapevolezze di sé. Però chiaramente non è un giocatore che cambia la squadra, che sa cucire il gioco, certo. Punto di riferimento importante, sa tenere palla, aspetta che la squadra accorci, si avvicini, però poi ha bisogno di essere servito in aria, e in aria lui ci sta sempre più a suo agio, insomma. Ecco. Tifoso Sollazzo, chi vorrebbe? Ma l'errore drammatico secondo me è stato fatto in estate, insomma, che Sarri non volesse Gabbiadini, l'ha fatto capire in ogni modo. Sì. Onestamente adesso ti ritrovi con l'alternativa reale che sono Pavoletti e Zazza. Zazza secondo me non è adatto al gioco del Napoli, e Pavoletti è uno straordinario attaccante, però molto fragile fisicamente anche lui. Quindi o c'è un'invenzione o la vedo durissima, insomma, anche nel caso si compri in maniera consistente. C'è un errore all'origine che purtroppo vizia una stagione e un mercato che invece nascevano sotto i migliori auspici. Ma perché Zazza non è adatto, mister, al gioco del Napoli? Sei d'accordo con Sollazzo? Ma non lo so, non sono molto d'accordo. Non sono molto d'accordo con lui. Il Napoli l'ha cercato quest'estate, quindi un giocatore che poteva fare al calcio del Napoli, poi ora magari avrà ulteriori motivazioni, fallita la sua esperienza in Inghilterra, e dopo comunque essere stato ceduto alla Juve, un ragazzo che ha qualità ed orgoglio può sì, vedere il Napoli la possibilità, infatti, secondo la me possibilità non sarebbe di una affermarsi. No? Infatti, io, non sarebbe una cattiva scelta, secondo me, caro Boris. Se deve andare sul sicuro, magari ci può essere l'ipotesi Bacca, che Bacca è un giocatore che in Europa e anche in Italia l'anno scorso in un Milan ne ha fatti 20. Insomma, è una certezza, e quindi probabilmente ci doveva pensare già quest'estate, forse è arrivato anche, può essere anche questa l'occasione. Grazie mister, grazie a voi, grazie, ciao, a presto, ciao mister. Capito, Boris? No, ma voglio dire, sono secondo me tutte soluzioni tra virgolette di ripiego. Poi è chiaro che Zaza è sicuramente più adatto al gioco del Napoli del Gabbiadini attuale, che fa giocare la squadra in 10, e sicuramente è un giocatore che ha il carattere e la possibilità comunque di adattarsi bene. Io lo vedo più contropiedista, lo vedo più capace di movimenti che non sono quelli di Milik, cioè qualsiasi cosa è in questo momento un tentativo di mettere una persa. Poi certo, magari Zaza, sai, mi può dare anche solo una gioia, che è quella di fare una doppietta contro la Juventus, cioè, non è un problema. mica escluso. Però a quel punto mi posso fare, a quel punto posso pure prendere Dumbia e sperare che segna la Roma. Ecco. Sì, va bene, abbiamo capito Sollazzo. Grazie, a presto. Grazie, ciao, a presto, Boris, ciao. Ciao Giacomo Bagnasco. Ciao, posso dirti subito, dimmi. Grande ammirazione per Gigi De Cagno. Secondo me uno degli allenatori più sottovalutati, che ha risolto problemi di tante squadre e poi adesso una squadra non ce l'ha. Non ho capito bene, ma se ne stava parlando prima. Lo dico anche da genuano, prima, oltretutto. Appunto, se ne stava aiutati. Parlando prima, insomma, una conferma probabilmente se l'ha meritata sul campo l'anno scorso a Udine. Comunque, questa è un'altra storia. Certo. La storia invece del rugby di domani porta l'Italia contro un'avversaria che è una montagna troppo alta per noi. Sì, è una montagna troppo alta, oltretutto se vogliamo trovare un ulteriore aspetto di difficoltà è proprio il fatto che il Sudafrica sta andando male. Sta andando male perché nelle ultime 10 partite ne ha vinte solo 4. Io non so se una serie così negativa l'ha mai avuta nel corso della sua storia. Ha perso dopo 10 anni dall'Inghilterra, è una squadra abbastanza in difficoltà. E proprio perché è abbastanza in difficoltà non può permettersi di sottovalutare l'Italia. La affronta con la migliore formazione, le manca Ezebet che è sicuramente un faro della mischia, ma comunque anche noi abbiamo le nostre assenze, soprattutto in prima linea Ghiraldini e Lovotti. Certo, però dobbiamo e vogliamo aspettarci qualcosa di meglio. Sono molto curioso di vedere, non domani, ma nel prossimo futuro, quali saranno i progressi con Oshì, che mi sembra abbia fatto presa sui giocatori. Sicuramente ha fatto presa sui giocatori, ha fatto presa credo anche sui tecnici dell'entourage azzurro, sullo staff azzurro in generale, per un modo di lavorare, probabilmente un fortissimo entusiasmo. D'altronde, appena lui è arrivato in Italia, quando gli è stato chiesto, gli ho fatta io la domanda, sì, in che cosa lei si può differenziare dagli altri allenatori che dopo 2 anni allargavano le braccia e dicevano più di così non posso fare. Lui ha detto: quello che vi posso dire è che io sono un allenatore giovane, che sono venuto qui per crescere nella mia carriera, che ho portato qui la mia famiglia, le mie figlie studieranno qui. Lui ci crede molto, è arrivato Stephen Aboud, che dovrebbe essere un fantastico tecnico per lo sviluppo del settore giovanile di alto livello, e dopodiché l'Italia parte indietro, c'è poco da fare. Questo è chiaro, adesso è il momento della semina, certo, Giacomo. Certo. Per il raccolto, secondo me, bisognerà aspettare un annetto. Senza far fretta, senza pretese eccessive, ma sperando di vedere dei passi in avanti. D'altronde abbiamo le due franchigie che nel Super 12, massima competizione tra selezioni gallesi, scozzesi, irlandesi, italiane, si chiama Super 12, la nostra sono la numero 11, la numero 12, è un insieme di cose per cui non ci si possono aspettare miracoli, visto che parliamo di Irlanda, invece domani a Dublino questa grandissima rivincita. Quella da vedere, perché io sono convinto è che da vedere anche se non c'è una TV che ce la trasmette, però troveremo altri canali, perché voglio vedere il fuoco negli occhi degli All Blacks. Gli All Blacks avranno il fuoco, il pubblico di Dublino ancora di più, ci si può aspettare veramente una grande partita, sicuramente la più importante di questo mese di novembre. Grazie Giacomo Bagnasco, a presto. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione. Ragazzi, ci sentiamo domenica pomeriggio dalle 5 alle 7 con Giovanni Capuano e poi la settimana prossima ovviamente tutti convocati. Fatto, dai, spegni il bianco, il rosso o il verde, dai, uno dei tre, spegni.